presto diventerai, ben presto pianerai. Mirate, mirate che già cade dal ciel, cade dal ciel. No, non tanta crudeltà, e te, di nuova l'impietà, un infelice figlio, spietato, tiranno, spietato, tiranno. Presto diventerai, ben presto piangerai. Mirate, mirate che già cade il fulmine dal ciel, cade, cade, cade il fulmine dal ciel. Dimmi sciocuri il barbari per poco gioirete, il fiato lo prendete e gli dal ciel m'aspetta la sola mia vendetta, sarai punito per presto piangerai, mirate, mirate che già cade.